4 mattino. Il governo sta seguendo un protocollo di sicurezza virus, quindi non sta facendo politica. Poi alcune pagliacciate da alcuni comuni dell'Italia non fanno testo, secondo me. Poi, per quanto riguarda la politica, devono fare politica e sono sempre ai soliti discorsi che non hanno alcun senso. Al di là del tratto proprio tipicamente italiano, quando il popolo, quando la gente si lascia prendere in questo modo, vuol dire che le istituzioni, a mio avviso, vuol dire che le istituzioni non hanno autorevolezza e non sono credibili. Per la stampa il discorso è tutto a parte, diverso, contribuisce chiaramente a un peso fondamentale, ma credo che il disastro vero avvenga con i socials. Gentile Simone, buongiorno. Ma va bene tutte le notizie inerenti a quello che sta succedendo in Italia, ma non si hanno più notizie per quello che riguarda la Cina, da dove è partito il tutto. Allora, eccoci di nuovo, la seconda parte di 24 mattino, alle 7, 18 minuti e 38 secondi di questo venerdì 28 febbraio. Ricordatevi che domani non è il primo marzo, ma è il 29 di febbraio. Anno bisesto, anno funesto, ha scritto qualcuno parlando del coronavirus. Al microfono sempre Simone Spezia. Sulla Cina arrivano aggiornamenti tutti i giorni. Oggi si parla di 44 morti, 327 nuovi casi. Il primo malato invece, del quale abbiamo parlato stamattina, identificato in Nigeria, perché sapete c'era tutta la preoccupazione, in Africa c'è il coronavirus ma nessuno lo dice, il primo identificato in Nigeria è un italiano. Lo si apprende adesso dalle agenzie, da Lagos, è ricoverato nell'ospedale di Lagos in condizioni stabili, non presenta sintomi preoccupanti, l'ha annunciato il Ministero della Salute nigeriano. E va bene. E poi appunto dibattito aperto, se volete, su quello che ci dicevate, su quello che sul tema appunto di se si è esagerato, quanto si è esagerato, anche di chi è la colpa, dei media, della politica e di come l'ha gestito, di questo contrasto tra regioni e Stato che è stato un po' sottotraccia, ma nemmeno troppo, è stato un po' sottotraccia dal punto di vista politico. Però, se volete, anche riaperto la grande discussione sul federalismo e su come in situazioni di questo genere funzioni effettivamente il federalismo. È un tema. Allora, ci trovate in diretta su Facebook, siamo su Instagram, ci ha mandato un su Instagram, poi come sapete mettiamo anche le vostre foto quando ce le mandate, quello che vedete dalla finestra, dal finestrino, il vostro risveglio, il risveglio degli ascoltatori di Radio 24. Oggi mi sa che metteremo questa bella foto che è arrivata da Luce, che ce la manda, si chiama così, ce la manda da Lussemburgo, un bel paesaggio innevato che rende ridente il Lussemburgo, dove lei si trova per motivi familiari, e dice: tutto bene, un po' di battute sul coronavirus e sull'Italia ci sono. Prevedibile. I titoli dei giornali: il virus spaventa le borse, spread a 163, è quello del Sole 24 Ore. Virus, crescono anche i guariti, il Corriere della Sera. Più guariti, virus mutato in Italia, è quello del Messaggero. Morti di coronavirus in Italia? Zero, è il titolo del Quotidiano Nazionale, con un'intervista all'infettivologo Matteo Bassetti che dice: basta bollettini di guerra, ci sono deceduti con il virus, non per il virus. Gli unti del Signore, titola il Manifesto, e l'aspetto è politico, con una foto di Salvini sullo sfondo e un'altra di Renzi in primo piano. Il tema, appunto, è proprio la politica. Isolato Conte, il Nord riparte, il titolo del giornale. La normalità è vicina, è quello di Libero. C'è voglia di ripartire, quello di Avvenire. poltronavirus, il fatto quotidiano su appunto Salvini e Renzi. Al nord tocca pure la tassa sul virus, sgravi fiscali solo per la zona rossa, questo è il titolo della Verità. La Stampa, virus, scoppia la guerra tra scienziati, il tema sono i numeri effettivi del virus appunto. Lo scontro è tra chi dice di attendere le verifiche, che bisogna attendere le verifiche dell'Istituto Superiore di Sanità, ne abbiamo parlato alle 6.30, e gli altri che dicono no, bisogna dare tutti i contagi. La Gazzetta dello Sport, Sarri rischia, Conte freme, quindi sui due allenatori della testa della classifica, Juventus e Inter, con Juve e Inter che si giocherà a porte chiuse. Di taglio basso, beh, Filippo Magnini assolto. Il re dei 100 stile libero, la rivincita in tribunale, il TAS annullato, la squalifica di 4 anni per tentato doping. Incubo finito, dice lui. Iniziamo, come sempre facciamo, non dalla sulla parte centrale della nostra rassegna stampa. Oh, di nuovo la sedia che cigola, eh? Non mica è stata sostituita, sentite qua. Eccola qua, eccola qua. Vabbè, va bene. Allora cercherò di stare il più fermo possibile per evitare che si senta il cigolio della sedia. Eccolo qua, eh? Niente male. Va bene, va bene. Iniziamo come sempre da qualcosa di diverso. Non ha a che fare con il coronavirus, non ha a che fare con le parti centrali della nostra rassegna stampa, ma sono storie che ci hanno interessato. La prima in realtà non è una storia, ma è un bel pezzo del quotidiano La Stampa a pagina 17 che ci racconta come sono stati spesi i soldi della carta docente. Cos'è la carta docenti? È il bonus formazione previsto per gli insegnanti, appunto. E che cosa si apprende? Smartphone, computer e concerti. Così i prof spendono il bonus formazione. Solo briciole per i corsi di aggiornamento, studiare una lingua straniera o visitare mostre e musei. Un nuovo computer, ma anche biglietti per cinema e mostre, un po' per la formazione, molto per l'acquisto di tablet e PC, e poi concerti e spettacoli, ma nulla o quasi per approfondire una lingua. Ecco dove finisce buona parte dei soldi che gli insegnanti italiani hanno in dote con la carta docente. Solo un quarto della spesa annuale stanziata dal Ministero dell'Istruzione per il bonus viene speso per la formazione. Il resto dei soldi da 4 anni i docenti li spendono soprattutto per comprare PC e tablet e nell'ordine, per andare a teatro, al cinema, ai concerti, per visitare musei. Detto, permettetemi che queste sono anche attività culturali e quindi se vogliamo riequilibrare dall'altro lato, opinione personale per carità, insomma anche andare ad un concerto è un'attività culturale che può servire ad un insegnante, cioè talmente vasta la necessità di un insegnante non solamente in termini culturali di puro nozionismo ma anche del saper parlare con i propri studenti che per dire anche un concerto di Billie Eilish per avere un punto di rapporto con i propri studenti può essere un elemento utile. Tutto è previsto dalla legge che ha istituito la CARD, sia chiaro, eppure il dibattito sui paletti che andrebbero introdotti e sull'opportunità che la spesa sia più centrata resta aperto, si legge nel pezzo, e non solo in ambito politico-istituzionale. Sindacati e associazioni auspicano un confronto con l'obiettivo che al centro ci sia solo l'aggiornamento e la formazione, che il portfolio professionale dei docenti sia l'unico destinatario della CARD. CARD che è stata introdotta con la buona scuola, la riforma di Renzi, ed ha un bonus annuale di 500 euro. Qua il tema è anche il controllo a livello scolastico, a livello delle singole istituzioni scolastiche. Lo racconta Anna Ruggero, qua intervistata, ex dirigente scolastica. È stata per 42 anni appunto nel mondo della scuola. Quando la carta docente debuttò nel 2016, nel mio ruolo di preside ero chiamata a vidimare le spese dei docenti, mi sono trovata a dover contestare fatture di libri o di computer senza il codice fiscale dei professori interessati o abbonamenti alla stagione del teatro Petruzzelli, la storia arriva da Bari, non personali. Poi non c'è stato più bisogno del controllo dei dirigenti e quindi in sostanza non controlla nessuno. Si può chiudere una strada pubblica per questioni di spaccio, chiudere completamente, farla chiudere e lasciare tutto in mano ai residenti come se fosse una proprietà privata? È quello che succede a Firenze con il benestare del comune. Siamo in pieno centro storico, in un vicolo vengono piazzati, appunto con l'accordo del comune, due cancelli antipusher. Lo racconta il Quotidiano Nazionale con Rossella Conte a pagina 17. I residenti di una via del centro hanno ottenuto di poter chiudere la strada dalle 20 alle 5 di mattina. Non ne potevamo più di vivere in una zona franca. Firenze si blinda contro lo spaccio, dice Conte, scrive Rossella Conte. Un'intera strada nel centro storico che dal mercato di Sant'Ambrogio conduce alla chiesa che porta lo stesso nome chiude letteralmente i battenti. Attenti, dal tramonto all'alba, dalle 20 alle 5, via dell'Ortone sarà off limits, inaccessibile perché alle due estremità infatti sono stati installati ieri mattina i cancelli, che blinderanno di fatto l'ingresso a questo fazzoletto di città. Il punto è che sono stati gli stessi tecnici del comune di Firenze a installare questo impianto di sicurezza in seguito alle pressanti richieste degli abitanti, stanchi di dover spalancare le proprie finestre su una zona franca eletta a luogo di ritrovo di sbandati o base operativa per lo spaccio. Dopo le molte lettere, alla fine si è arrivati a questa soluzione e con dei telecomandi che saranno nelle mani dei soli residenti. Ci sono... insomma, sul tema di Firenze molte se ne sono sentite nei mesi scorsi dopo la proposta del priore della Basilica di Santo Spirito di chiudere il sagrato con una cancellata antibivacchi. San Lorenzo che negli anni scorsi ha ingaggiato addirittura delle sentinelle per difendere l'area antistante la chiesa. E Santa Maria del Fiore che ha dovuto installare un cordone antiseduta per proteggersi dall'assedio dello struscio del turismo di massa. Stavolta dunque è toccato ad un'intera strada. Viene da chiedersi qua... fino a dove si arriverà? Cioè, fino a che punto? Cioè, se i cosiddetti sbandati, spacciatori o quello che è, si spostano in un'altra strada, che fai? Chiudi anche l'altra strada con delle cancellate? E a proposito di proprietà privata, c'è una vicenda che da qualche tempo gira, non solo sui giornali, insomma l'avrete sentita raccontare, è quella di quel luogo meraviglioso che è la Scala dei Turchi, il pezzo di costa agrigentina di Marna Bianca, noto, racconta Valentina Raffa, pagina 16 del giornale, perché è quanto di più vicino all'idea di Eden che esista. Ebbene, è stato messo sotto sigilli dalla Guardia Costiera di Porto Empedocle. La decisione del procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio, che ha messo in conto l'immenso valore storico, paesaggistico e geologico dell'area, a fronte della quale si deve registrare una carente tutela, verosimilmente attribuibile all'ambiguo status giuridico dello stesso. Perché, forse non ve lo ricorderete anche se la storia era circolata, gran parte dell'area risulta al catasto di proprietà di un cittadino, Ferdinando Sciabarrà, mentre il resto è del comune di Realmonte. E Sciabarrà è finito sul registro degli indagati per occupazione di demanio pubblico, nonostante rivendichi appunto la proprietà della Scala dei Turchi. L'area necessita di interventi per metterla in sicurezza. Lo stesso Sciabarrà non ha effettuato alcun intervento, ma ha avanzato pretese economiche sulla fruizione del sito. Sta di fatto che la Scala dei Turchi si sta sbriciolando e a dicembre i detriti di Marna sono collassati sui gradoni naturali della scogliera in quanto l'eccessiva cementificazione intorno ha modificato il normale deflusso delle acque meteoriche. Dunque, sotto sequestro, la Scala dei Turchi. E a proposito del nostro ambiente, c'è un... tema che stiamo un po' sottovalutando in queste ore nelle quali ci siamo concentrati sul coronavirus, un tema che ha molto a che fare anche qua con il nord Italia, ma non solo, ed è la siccità. Ci torna a venire a pagina 4. Ragazzi, non piove e non piove da mesi. Il livello del fiume Po, racconta Daniela Fassini, è quello del mese di agosto e anche i bacini dei laghi e le riserve idriche da nord a sud sono al collasso. Da un'Italia alle prese con l'emergenza coronavirus c'è un'altra Italia più grande che, nascosta dai riflettori e in silenzio, deve fronteggiare la calamità della carenza dell'acqua. Un'emergenza che tradotta in vita quotidiana significa campi completamente a secco, meno prodotti agricoli sulla nostra tavola e più cari al mercato e distruzione di gran parte dei nostri territori. L'allarme è lanciato, come spesso accade in questi casi, da Coldiretti. Il livello idrometrico del Po è sceso ed è basso come in piena estate al Ponte della Becca e di meno 2,4 metri. Difficoltà si registrano anche in Sardegna, dove il consorzio di bonifica di Oristano ha addirittura predisposto a tempo di record l'attivazione degli impianti per l'irrigazione per garantire acqua ai distretti colpiti dalla grave siccità. E ovviamente l'estate deve ancora arrivare. Una pausa. Ventiquattro mattino. Poi molti di voi ci hanno scritto in merito al pezzo della stampa che abbiamo letto, quello che parlava della carta docenti, cioè quella che permette di fare formazione, con la quale abbiamo letto molti professori hanno acquistato, molti docenti hanno acquistato PC o tablet, e molti ci dicono: guardate, io sono un docente, la uso. Uso questo PC, questo tablet per lavorare, lo porto, lo collego in classe, lo uso per fare delle presentazioni, insomma è uno strumento di lavoro. Più di uno ce l'ha scritto. No, ma giustamente il tema è un po' qua il controllo di questa spesa, da chi viene effettuato e come viene effettuato. Insomma, un minimo di controllo, visto che sono soldi pubblici, ci vuole. Poi ci si fida, per carità, insomma. E invece sulla sedia sulla famosa sedia che cigola, qualcuno dice: guarda, è colpa di Cruciani, che lo vedo su Facebook che si sbraccia quando si arrabbia con Parenzo, e quindi la rende così, chissà. Caro Paolo Mieli, caro direttore, buongiorno. Buongiorno. Dal modo in cui iniziamo la nostra chiacchierata del venerdì, oggi è una settimana esatta da quando è scoppiata in modo così virulenta la questione del coronavirus, capisco che stiamo per voltare pagina, insomma, che il peggio, quel momento di panico è finito, lo capisco anche dai titoli dei giornali, il fatto che tu ti occupi d'altro è un ottimo inizio. Allora, molto understatement, ottimo, bravo. Grazie Paolo. Sì, tutti molto più tranquilli, tutti a parlare dei guariti, tutti a parlare dei numeri di contagi che inevitabilmente caleranno, come scrive per esempio il Manifesto, appunto il Corriere della Sera, che titola: crescono anche i guariti, ne parla anche il Messaggero, insomma questo è in sostanza. I mercati non si sono ancora ripresi, il Sole 24 Ore ce lo racconta bene in prima pagina, il virus che spaventa le borse con lo spread a 163. Sì, lo spread, il virus e poi il Sole 24 Ore, come normale che sia, si occupa anche delle conseguenze economiche, quelle sì terribili, nel senso che noi avevamo delle crisi aperte, una per tutte, l'Alitalia, l'Ilva, e su queste la ricaduta di questa settimana terribile, borse cadute da 5 miliardi, Andrea Franceschi sul Sole 24 Ore, dallo stop alla crescita, all'impulso al processo di deglobalizzazione di Maximilian Cellino, è un'intervista questa, sempre sul Sole 24 Ore, Corporate America crescita zero nel 2020, Marco Balsania sempre sul Sole 24 Ore, insomma l'economia sarà il punto terribile adesso, superato lo shock di questa settimana. Io, se permetti, comincerei con una cosa che esiste, che compare oggi sulle prime pagine della Nazione, Resto del Carlino Giorno, un'intervista a un infettivologo, Bassetti, che ci ricorda una cosa importante che noi dimentichiamo, che praticamente non ci sono morti per coronavirus in Italia. I deceduti segnalati finora, sono le sue parole, avevano un morbo, ma le loro condizioni erano compromesse da altre patologie. Sì. Guarda Paolo, giusto adesso, non per autoincensarsi, per carità, però in realtà sono giorni che stiamo dicendo che questi non sono morti per il coronavirus, ma con il coronavirus, che è una cosa diversa. Cioè, sono risultati positivi, ma avevano appunto una condizione già compromessa. Anche da qua percepiamo che sta tornando un po' di calma. È vero. Noi lo abbiamo detto fin dal primo giorno, l'abbiamo detto giorno dopo giorno, però adesso è la volta dei giornali, l'intera carta stampata e molti capi di Stato. Per esempio, ti prendo un'altra piccola notizia, ma che è significativa: Israele ha respinto, come è noto, i turisti italiani, poi ha messo in quarantena perché aveva una strana setta religiosa che ha fatto un viaggio in Israele dove c'erano degli infettati, quindi ha dovuto mettere sotto controllo molti dei suoi cittadini, ma lo leggo in coda a un articolo di David Frattini. Per adesso si affacciano in coda gli articoli. Il premier Netanyahu ha escluso il rinvio delle elezioni di lunedì. Sono stati allestiti seggi per i possibili infettati e qui gli scrutatori sono tutti volontari a pronto soccorso perché nessun altro ha accettato di correre il rischio. In qualche modo, mentre da noi siamo ancora lì a discutere le scuole, riaprire il Duomo, forse si può andare al bar dopo le 18, ma purché seduti, una nazione molto preoccupata, Israele, ha confermato le elezioni lunedì e probabilmente noi lunedì staremo a occuparci delle elezioni in Israele, perché sono elezioni molto importanti, ma ne parleremo la prossima settimana e forse, speriamo, volteremo a pagina. Comunque, detto questo, i giornali sono ancora pieni anche degli effetti politici di questa cosa, perché come ti ricordi, ne abbiamo già parlato nei giorni scorsi, si è affacciata l'ipotesi di un governissimo, ieri Matteo Salvini è andato da Mattarella, da Mattarella, col capo dello Stato. Marzio Breda sul Corriere della Sera dice che il Colle, il capo dello Stato, non considera neanche, non prende neanche in considerazione l'ipotesi di governissimo, ma Matteo Salvini ci dice che non ne ha parlato. Insomma, queste sono le solite cose all'italiana, cioè il tentativo di dare una spallata al governo Conte, complice la grande crisi del coronavirus, e non è andato in porto, se c'era, se ci fosse. Però il governo ne esce indebolito, c'è un editoriale molto importante sulla stampa di Giovanni Orsina che dice che questo governo esce a pezzi, insomma non è stato tramortito dal coronavirus, però ha molte difficoltà in più, anche se l'opposizione non è riuscita, come stavo appena dicendo, a dare il colpo fatale. L'opposizione, diciamo, è un pezzo della maggioranza, stando a quello che scrivono i giornali, ossia Matteo Renzi con Italia Viva. Per chiudere questa pagina sul coronavirus e poi andiamo al traffico e passiamo ad altro, voglio segnalare agli ascoltatori altre due cose. Se volete un bel raffronto su come è stata gestita la cosa da Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Piemonte, potete prendere il Quotidiano Nazionale, che a pagina 3 fa un bel giro in Toscana, la Toscana della quale abbiamo detto c'è la comunità cinese più grande d'Europa, prevenzione, il modello Toscana vince, intanto la Chinatown pratese resiste, il direttore scientifico dell'Istituto Spallanzani elogia le misure applicate dal governatore Rossi, che le scuole non le ha chiuse, ha tenuto aperto, è partito un piano di prevenzione molto forte che ha tenuto dentro anche tamponi sulle ambulanze, quindi insomma c'è stato un altro modo di gestire la crisi. E vorrei segnalare agli ascoltatori anche l'editoriale, il commento di Alessandro De Nicola sulla Stampa, pagina 23, non so se l'hai visto Paolo, se ti è sfuggito, che è interessante perché ci sottopone il problema di come è stata gestita tra i livelli territoriali e i livelli nazionali questa crisi, questa, per quanto breve sia, vedremo se sarà finita. Si calcola che ad oggi siano già più di 30 i provvedimenti del governo degli enti locali che riguardano l'epidemia, questo per darvi la misura poi della confusione che uno si trova a gestire. Ci si trovano i cittadini che non capiscono cosa succede, ci si trovano gli stessi amministratori, no? Che di fronte a tutta una serie di provvedimenti non sanno come gestirla. Io, se permetti, aggiungo sempre quella pagina curiosa che fa Libero ogni giorno, Strano ma Virus, dove si riportano le notizie piccole. C'è un candidato, cioè un segretario comunale del Partito Democratico in provincia di Pisa, si chiama Samuele Agostini, che ha detto che se lui dovesse morire preferisce morire renziano, in modo che c'è un renziano in meno. C'è il Papa col raffreddore, tremano i fedeli. La birra Corona che perde clienti perché ha paura, che evidentemente qualcuno ha paura che ci sia il virus nella birra Corona. Morto un ex ambasciatore dell'Iran in Vaticano per il Covid-19, anche questo non si sa, magari era vecchio, malato di tumore. e una bimba infetta che finisce alla gogna. Negli Stati Uniti per fare il test si pagano $3,000. Insomma, se sì, un'altra birra ha fatto che se prendi una birra ti danno una mascherina in regalo, e l'azienda della Mucchina verso nuove assunzioni. Lo stabilimento è ad Ancona. Allora, traffico. Mattino. Devo dire, e passiamo ad altro, che anche i giornali che normalmente sono più attenti alle cose estere dedicano curiosamente poco spazio a una vicenda importante, Paolo, che è quello che è successo ieri in Siria con l'attacco ai soldati turchi. Sarebbero una trentina i morti, la reazione minacciata da Erdogan che fa profilare uno scontro con la Russia, e poi appunto la minaccia di Erdogan che parla di della possibilità di far passare i profughi, di far ricominciare il passaggio dei profughi verso l'Europa. Verissimo, guarda, hai perfettamente ragione. Da lunedì, se le cose continuano con l'andazzo che abbiamo detto, questioni come queste avranno un titolo grande in prima pagina. Riprende la guerra in quello scacchiere fra Russia, Siria, Turchia. Ricordiamo che la Turchia è nella NATO, quindi è una guerra che ci può coinvolgere molto da vicino, e Erdogan prova a mettere sotto pressione all'Europa: non fermiamo più i profughi. Questo è l'articolo di Vincenzo Nigro, sono piccoli articoli, uno su Repubblica, uno sul Corriere della Sera, però rimettono in questione non solo quella frontiera verso Idlib fra la Siria e la Turchia, ma rimettono in discussione la questione profughi. Questa può essere veramente un'emergenza, non dico assai più catastrofica del Covid, ma insomma può riportarci con i piedi per terra, e forse è giusto e sano rimettere i piedi per terra, anche se li rimettiamo su una cosa così scottante come quella che tu hai segnalato. Sì. C'è una vicenda che troviamo un po' su tutti i quotidiani, che ha a che fare con l'aeroporto inglese, l'aeroporto londinese di Heathrow, ed è un tema che mi ha incuriosito, Paolo, perché anche dalle nostre parti si parla spesso della possibilità di espandere gli aeroporti, di allargarli. Ebbene, a Heathrow si decide di non farlo in omaggio a Greta, per così dire. Infatti la stampa titola l'articolo "Effetto Greta sullo scalo Heathrow, niente espansione dell'aeroporto, la Corte d'Appello accoglie il ricorso degli ambientalisti, stoppa la costruzione della terza pista voluta dal governo". Di che stiamo parlando? Che per fare una lotta vera, efficace contro il riscaldamento globale, si dice: ma cosa dobbiamo costruire una terza pista? No, qua per garantire il rispetto degli accordi di Parigi sui cambiamenti climatici. E infatti il gruppo Amici della Terra ha detto: questa è una sentenza rivoluzionaria, un risultato arrivato dopo oltre 10 anni di battaglie, salutato anche da Greta Thunberg. Per questo chiamano tutti in causa Greta Thunberg, perché Greta Thunberg ha detto: è una meraviglia. E oggi è attesa a Bristol per una manifestazione di ragazzi che si annuncia imponente, al punto che la polizia ha invitato i genitori a essere vigili a fronte di misure di sicurezza che potrebbero rivelarsi inadeguate. Ecco, a proposito, Paolo, di attivisti per il clima, insomma, no? Attivisti ecologisti, c'è un importante attore che è un po' nell'occhio del ciclone in questo momento, esattamente per questo. Si tratta di George Clooney con questa coppia divisa, no? Amalda una parte che lotta per i diritti umani, e lui invece che è un po' nell'occhio del ciclone per questioni che hanno a che fare col caffè. Questo sì che i giornali hanno preso bene. Amal, cioè, l'avvocatessa degli ultimi che porta alla sbarra i governi, articolo di Gabriella Colarusso su Repubblica. Ma George Clooney, che è noto, fa la pubblicità da anni per una nota, 14 anni, per una nota marca di caffè, la possiamo nominare? Che dici? Cosa? Lo possiamo? Possiamo? Si può nominare la marca? Ma sì, dai, dai, dai. Vai, vai, vai. Tanto vabbè, lo sanno, guarda, tutti. Faccio un'eccezione, fa pubblicità per la Nespresso, si è scoperto, insomma, che usano dei bambini per produrre questo caffè. E allora Cluna in tutti gli stati, scandalo caffè, ora scricchiola l'immagine dell'attore attivista, c'è un articolone anche sul Corriere della Sera. Beh, insomma, sono contraddizioni in famiglia. L'articolo del Corriere della Sera di Alessandra Muglia dice: Amal Clooney in tribunale per le Maldive, perché sta lottando contro Aung San Suu Kyi, e George se la prende col suo caffè, cioè George è in lite col suo caffè. Per dire, il Corriere della Sera dedica una pagina quasi intera a questo articolo, molto curioso, tutti lo leggeranno, anche perché c'è una bella foto della moglie di Clooney e un piccolo trafiletto a fianco, sulla destra, alla questione siriana, con la quale noi invece abbiamo aperto questa parte della nostra conversazione. Addirittura due pagine, se non vado errato, sul quotidiano La Repubblica, no? Da una parte Amal, da una parte George Clooney. E anche lì un trafiletto piccolo sulla Siria. Dimmi la verità. Tra un po' forse la questione siriana diventerà più importante di quella dell'Anespresso, se così possiamo dire. Dimmi la verità, Paolo, stasera lo guardi Amici? Amici di Maria De Filippi. I giornali sono un po' avari. Ieri è stata una tempesta. Le sardine letto, da amici. Ovviamente solo le quello sardine, che le sardine vanno ad Amici. In confronto alla gaffe, non so, così la possiamo chiamare, quando andarono da Olivero Toscani e Benetton, e questa è clamorosa perché mette in imbarazzo. Il fatto era sdegnato, oggi parla solo il Corriere della Sera con un trafiletto di Maria Volpe, peraltro molto ben fatto, ma ieri è stato il giorno dello sdegno e dice no, questa è troppa, andate. Ma loro si difendono dicendo no, ma noi andiamo ad Amici perché quello è un pubblico di giovani, noi vogliamo parlare ai giovani, e ci portano tutto lo Stato Maggiore, questa volta ci sono... c'è Santori, Jasmine Cristallo, sono tutti quanti, esatto, sono tutti quanti. Cioè, tutti quelli che dicono ma no, stiamo un po' lontani dal video, così da Santori e Jasmine Cristallo, cioè l'anima nord e l'anima sud del movimento, tutti ad Amici. Imperdibile. Cosa credi che farò io stasera? Beh, certo, dove, guarderai, beh, quale certo, canale come, mi sento, come non puoi. Lo dirò a nessuno. Ma io rimarrò lì colorato a vedermi questa cosa perché, come sai, amo questa questione, amo questo caso. Beh, certo, quindi Paolo Mieli che guarda Amici, ragazzi, qualcosa di inimmaginabile. Grazie Paolo, ci sentiamo lunedì, Grazie a te, ciao. GR24 e ci risentiamo subito dopo.